21. Zic Radio, siamo in diretta dalla Newsroom, via Paolo Fabbri 110, VAP 61, per raccontarvi in diretta del concentramento del corteo o presidio che si sta concentrando in questi minuti in Piazza del Nettuno, e vietato dal prefetto, dalle autorità di questa città in applicazione della direttiva Maroni. Corteo lanciato dal Patto di Base, il sindacato del Patto di Base, che ha visto l'adesione di molte realtà di movimento. Qui al mio fianco c'è Dario. Ciao a tutti. Alla parte tecnica abbiamo Sirio, alla regia musicale Jack. Buonasera ragazzi. Ciao. E si alternerà alla conduzione anche Walter, che ora è in redazione a raccogliere il flusso informativo in tempo reale e all'aggiornamento del sito, all'aggiornamento di zig.it, dove vi daremo in tempo reale tutte le informazioni che vi diamo anche in diretta audio. Abbiamo Piero. E Piero saluta. Tra pochissimo ci collegheremo con la piazza, con il nostro corrispondente Sean. Adesso 30 secondi solo di musica mentre prepariamo il collegamento e tra pochissimo in diretta dalla piazza. Pistol shots ring out in a barroom night. Into Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of the world. Three bodies lying dead as Patty C. And another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register. I hope you understand. I saw him leave, and he says, and it stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. That's the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat. Alfred Bello had a partner and he had a rap for the cops. Him and other Dexter Bradley were just half prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car without a state plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, he told him he could identify the guilty man. Bene, in diretta dovremmo essere collegati con Gabriel. Sì. Bene, com'è la situazione in Piazza Nettuno in questo momento? Al momento ci sono già in piazza sulle 200 persone, venendo da vari ambiti diversi, studenti, centri sociali, sindacati di base, Bologna Città Libera, che si stanno radunando attorno alla fontana del Nettuno. La piazza è effettivamente presidiata sui due lati da uno schieramento abbastanza consistente di polizia e carabinieri. Al momento molto tranquillo comunque. Ecco, sì, come sono insomma un po' gli umori dalla piazza? Se hai avuto modo di incrociare lo sguardo, di scambiare due parole con qualcuno? No, al momento molto vivace, cioè, hanno messo su della musica, comunque persone sorridenti, tranquilli, anche cioè, persone di età diversa, famiglie, cioè, al momento direi che è molto tranquillo, abbastanza vivace anche. Quindi mi sembra che sta a dire che il timore che la piazza fosse completamente militarizzata e inaccessibile per ora non c'è, quindi la scommessa si sposta a questo punto sul riuscire o meno a muoversi in corteo come previsto. Su quello non ho ancora avuto un senso, perché comunque l'ingresso della piazza che dà su via Rizzoli è presidiata da polizia, comunque in antison, cioè con scudi, manganelli, ci sono 4-5 camionette della polizia, uno dei carabinieri e due volanti dei vigili, mentre dall'altro lato ci sono anche, cioè, almeno fino a un attimo fa sì, ci sono ancora comunque uno schieramento di carabinieri. Sull'ingresso alla piazza che dà quella specie di tunnel che porta a piazza Palazzo Renzo, mentre l'altro ingresso alla piazza che dà su Piazza Maggiore c'è una presenza dei carabinieri, ma sembrano, cioè, comunque è davanti a Palazzo d'Accursio 3-4 camionette dei carabinieri, però comunque la piazza non è effettivamente blindata. Bene, direi che per ora possiamo registrare questo dato e vedere appunto quanta gente continua ad affluire in piazza e come si sviluppa la situazione da te e dall'altro corrispondente che abbiamo, e se gli altri redattori qui non hanno altre domande possiamo chiudere questo primo collegamento. Ti ringraziamo Gabriel, ci sentiamo più avanti. Ciao. Va bene, a poco, ciao bello. Sempre in diretta, sono le 15:47 e voi ci state ascoltando in 6 in questo momento, dice il nostro personalissimo ma infallibile Auditel. E direi che possiamo ascoltarci un altro po' di musica, tra poco sentiremo anche Alvin, ma approfondiremo anche un po' come si è arrivati a questo corteo e altre questioni insomma all'ordine del giorno nella città di Bologna, ma basta tediarvi, musica. I'm free to drink martinis and watch the sunrise while Ruben sits like Buddha in a 10-foot cell. And in a set man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell but one time, he gonna be the champion of the world. e poi si getta dentro un pozzo nero. Vuole come intelligenti per i dividi del futuro. Creati i zuccheri di Cosnos. Ci aiuteranno a vincere il race. Ha ammazzato una brava suora. Deve tornare in galera. Quando ne ha prezzi di saldo, che fare farsi perdonare, abusi verificare caso per caso, l'Italia dei barbari aveva i suoi gioielli. Cancro zero, il 93% delle donne ce l'ha fa. Stitichezza cronica, dalla ricerca una soluzione. Lo scopre il figlio dopo un mese. In discoteca la coca ha soppiantato l'ecstasy. Il sindaco ha detto che non investe più sui ragazzi difficili. La luna di oggi in Capricorno, unitamente a Mercurio, in aspetto di tensione vi regalo un certo cucino. Così si torna ai manicomi. Nel capoluogo di alle targhe alterne. La città perdita, lo spontegare, lo spontegare. all it's gonna be. Ones that you never see. So say goodbye to green. Cause here it comes in a grand old yellow and emerald orange. And you can just get on down to the field and hit on the fall. Quindici cinquantasette e qualche secondo, siamo sempre in diretta via web su Zik Radio. A proposito, lancio un appello: se qualcuno nel cassetto sotto il materasso ha una frequenza in FM da regalarci, ci contatti, ma anche chiunque voglia intervenire in trasmissione anche per altri motivi può farlo telefonando allo 051 588 0406, ripeto 051 588 0406. E ricostruiamo un po' allora come siamo arrivati alla situazione odierna, ad avere una piazza Nettuno presidiata dalle forze dell'ordine, ma dove comunque si sono potuti concentrare i manifestanti per il corteo indetto dal patto di base e attualmente non autorizzato dalla questura e dalla prefettura di Bologna. E tutto è iniziato con un appello lanciato ai primi di marzo da 100 delegati RSU dei sindacati del patto di base, che sono la Confederazione Cobas, le RDB Cub e l'SDL intercategoriale, e che appunto invitava a manifestare appunto contro la direttiva Maroni, questo dispositivo che è stato emesso dal Ministero degli Interni e recapitato in tutte le prefetture italiane perché ponessero delle limitazioni al diritto di manifestare per non turbare l'ordine pubblico, non turbare la pace sociale, in particolare nei centri storici. Bologna è stata la prima ad applicare questa direttiva, ma non è solo per questo che si è in piazza, ma anche contro le allucinanti restrizioni che questo governo è in cantiere al diritto di sciopero e l'istituto abbastanza ridicolo dello sciopero virtuale, che detta in soldoni consisterebbe nel fare sciopero ma andare al lavoro lo stesso, rimetterci la paga e basta, che sembra una presa per i fondelli e lo è, perché in altro modo non ci riesce di definirla. Il 12 febbraio un'iniziativa pubblica in una sala comunale ha promosso questo appuntamento che ha visto subito l'adesione di alcune realtà cittadine, tra cui il centro sociale VAC 61, il laboratorio Crash, la rete dei comunisti, Sinistra Critica, il Partito Comunista dei Lavoratori e l'Assemblea Antifascista Permanente, spero di non dimenticare qualcuno. È stato chiesto un percorso che anche a dire il vero abbastanza breve, che da Piazza del Nettuno arrivasse alla prefettura nella vicina Piazza Roosevelt, e ciò nonostante in applicazione dell'ordinanza prefettizia, che a sua volta applica la direttiva Maroni, questo presidio, questo sia il concentramento sia il corteo sono stati vietati. Il sindacati di base hanno fatto ricorso al TAR, che è già stato respinto, la notizia è dell'altro ieri, e stanno avanzando un secondo al Consiglio di Stato. L'obiettivo è insomma porre la contraddizione nelle altre sedi istituzionali di un provvedimento che è assolutamente anticostituzionale, perché limita il diritto d'espressione, limita diversi diritti garantiti dalla Costituzione, non tanto per un appassionato amore per la Costituzione della Repubblica, ma nell'obiettivo di giungere al ritiro di questa direttiva. Rieccoci di nuovo online, in diretta dagli studi di Valley 61. Riprendiamo da dove siamo caduti. C'è stato un problema tecnico che abbiamo immediatamente risolto, e quindi andiamo a sentire, no? L'intervento di Valerio Monteventi di Bologna Città Libera, che parla delle motivazioni che insomma hanno spinto quest'oggi il patto di base e numerose realtà di movimento, centri sociali e partiti e studenti ad essere in piazza oggi, in piazza del Nettuno, per affermare il diritto a manifestare anche in centro e anche nel fine settimana. Bologna Città Libera, che come diceva, mentre purtroppo nessuno mi poteva ascoltare, ha già rotto in due occasioni il divieto di manifestare, lo scorso sabato e lo sabato precedente, quando appunto è andata in piazza e si è presa delle sonore denunce per una manifestazione non autorizzata, e addirittura alcuni dirigenti di polizia hanno ipotizzato misure ulteriori, insomma, se non fosse finita questa velleità di manifestare in piazza il sabato pomeriggio, come se fosse chissà quale strana cosa. Ma sentiamoci quest'audio e poi tornerò a ricapitolare insomma come si è arrivati a questa data, perché probabilmente parte della spiegazione non è andata in onda poco fa. Sabato noi vediamo la questione a livello individuale e non come Bologna Città Libera, ma non perché appunto non condividiamo i temi della manifestazione, ma perché vogliamo che comunque questa battaglia sia più ampia, quindi vada oltre il discorso delle elezioni, quindi che non ci siano anche fraintendimenti su un'eventuale strumentalizzazione elettorale, perché questa è una battaglia che riguarda soprattutto le persone che sono poco tutelate nel nostro paese, nel senso che si corre il rischio di creare proprio una frattura per cui i grandi partiti, le forze politiche che hanno dei soldi o le liste elettorali che hanno dei soldi possono fare le loro attività, e chi utilizza le strade delle piazze per poter esprimere i propri contenuti e le proprie progettualità viene fortemente limitato, sia da una direttiva come quella del ministro Maroni, sia dalla sua applicazione concreta nella nostra città, e che l'ordinanza del prefetto, che è stata sostenuta con l'assenso del sindaco e della presidente della provincia, quindi del partito di maggioranza relativa in questa città. Quindi è giusto che la giornata di domani sia, come veniva detto anche prima, un momento di partenza. Questa battaglia è una battaglia anche di lungo periodo, perché non si concluderà con la cosiddetta pausa elettorale, anche perché, voglio ricordare, quando scatterà il periodo pre-elettorale, comunque per le organizzazioni sociali gli spazi sono più limitati di prima, non è che l'ordinanza viene messa da parte e dopo tutto ritorna come prima, perché comunque soltanto chi è in lista per la campagna elettorale può utilizzare le piazze e le strade, quindi questo è un altro aspetto. Non è che tutto il livello di mobilitazione si possa fermare da qui a settembre. Nelle settimane scorse sono partite le denunce, domani, cioè sabato, speriamo appunto che ci sia una partecipazione ampia, e sarà sicuramente una giornata dove l'elemento della comunicazione sarà l'elemento centrale, perché ancora tantissime persone non sono a conoscenza di questo provvedimento. Quando una persona normale si rende conto che esiste un provvedimento del genere e si stupisce perché non c'è stata la dovuta informazione, questa, poi rispetto a quello che è successo ieri invece si cominciano ad avere gli effetti concreti. Questo è quello che avverrà nei prossimi mesi se questa direttiva non viene ritirata. Quindi occorre assolutamente fare, alzare anche il livello della mobilitazione con una continuità, insomma, cioè nel senso che a partire dalla giornata di sabato bisogna poi anche negli altri weekend continuare con iniziative diversificate per continuare questa battaglia. Io volevo chiedere una cosa sul ricorso al TAR, se avete già notizie. Come il sottoprefetto prima mi ha detto che hanno rigettato l'istanza di sospensiva perché, come dicevo, io non l'ho vietato ma soltanto dato delle prescrizioni e quindi il TAR ha dato ragione. Ma al di là di questo, secondo me anche il ricorso legale sarà comunque un'arma da utilizzare, nel senso che il paradosso della ordinanza bolognese e che non fa nemmeno distinzione tra un corteo e un presidio, quindi ci sono delle, cioè non prevede per i presidi che una piazza come questa, che è sempre stata utilizzata per questo tipo di manifestazioni e iniziative, possa essere utilizzata. Questo è paradossale, insomma, cioè proprio mette in discussione una situazione che si era determinata dal dopoguerra arrivare ad oggi, insomma. Cioè non c'è mai stata una direttiva a Bologna per tutti i decenni passati che avesse queste caratteristiche, quindi è paradossale appunto che su questo fino ad ora pochissime realtà hanno preso posizione. Anche questo sarebbe il momento che chi è stato zitto fino ad ora cominciasse a dire se è d'accordo oppure no, insomma. Anche gli intellettuali di questa città, dove sono finiti, se esistono ancora? Cioè, nel senso che sono capaci di leggere e di scrivere, penso, e quindi potrebbero anche senza uno stimolo di qualcuno prendere posizione, sarebbe ora. Quindi tutti quelli che verranno al presidio, che verranno qui in piazza, cioè, visto, immagino, visto che non si può fare per la polizia, ci sarà lo schieramento di polizia, tutto, cioè, si andrà contro il divieto, cosa, cioè, materialmente... Cosa può succedere? Che ti fanno venire in piazza, poi ti circondano, ti fanno uscire, ti fanno stare lì dentro... Siamo lì dentro, comunque non vogliamo fare del conflitto. La cosa la facciamo? Se chiudono la piazza, stiamo attorno al cordone, siamo lì e comunichiamo alle persone quello che sta avvenendo. E penso che per le persone che vedranno questa scena, qualche domanda se la porranno, perché c'è questo tipo di situazione con la polizia che ha questo tipo di atteggiamento. Poi è chiaro che non si sa cosa farà. Abbiamo in diretta dalla piazza per il Zik Radio quando sono le 16:13 il segnato Albi, ci sei? Ci sono, siamo in piazza, ma guarda, ci sono almeno 500 persone, quindi una partecipazione buona, direi. La situazione è che hanno lasciato, come ormai saprete già ovviamente, entrare in piazza, quindi comunque abbiamo in un primo momento sicuramente rotto il divieto di entrare in piazza nessuno, per ora la piazza è chiusa da entrambi i lati, quindi per ora l'impressione è che non si riuscirà a partire con il corteo. Come dicevo, centinaia di persone, diciamo almeno 500, varie bandiere, in gran parte bandiere dei sindacati di base, soprattutto dell'RDB, e striscioni, bandiere degli altri sindacati di base, dei partiti come PCL, Sinistra Critica, così, gente di Bologna Città Libera, uno striscione di Bag 61, Bologna in centro manifesta, fissa adesso una delle finestre del comune abbastanza in alto, molto visibile, è stato, per ora l'unico momento di tensione è stato mentre c'era da affiggere questo striscione abbastanza in alto, e per il resto tutto tranquillo, una piazza anche così allegra, vivace. Approfitto per fare qualche domanda a Massimo Betti dell'RDB, uno degli organizzatori del corteo. Beh, intanto Massimo, una valutazione su questo fatto che per ora comunque siamo in Piazza Maggiore. Beh, insomma, la valutazione è assolutamente positiva, non era affatto scontato, credo che ci sia oggi di fatto una disobbedienza di massa, perché 500 persone che, sapendo che appunto la manifestazione non è autorizzata, si ritrovano e si mettono in gioco tutti insieme in piazza del Tuna, è un risultato politicamente molto molto rilevante. Abbiamo cominciato, secondo me, a demolire questa direttiva della prefettura, un primo momento, però la valutazione è ottima, insomma. Ecco, oltre a essere un primo importante momento di, appunto, di disobbedienza, di lotta contro questa ordinanza, contro il divieto a manifestare, questo è anche un appuntamento promosso dal patto di base, dal sindacalismo di base, anche in difesa del diritto di sciopero, e fa parte di un percorso di mobilitazione nell'ottica del noi la crisi non la paghiamo, insomma. Certo, noi avevamo indetto questa manifestazione proprio contro il divieto di sciopero, contro la crisi economica, in preparazione della manifestazione nazionale che ci sarà sabato prossimo 28 a Roma, una manifestazione appunto intesa dal patto di base, quindi dalla CUB, RDB, dai COBAS, dall'SDL, una manifestazione che tra l'altro ci avevano vietato e che ieri sera invece ci hanno autorizzato, quindi mi sembra già un risultato importante della mobilitazione che abbiamo messo in piedi nel paese contro il divieto di manifestazione. Perfetto, grazie Massimo. Alvi, tu hai qualche elemento riguardo quello che diceva adesso Betti, cioè sarebbe arrivata ieri sera un'autorizzazione in extremis alla manifestazione? Guarda, no, non ho altri elementi in particolare, sapevo già di questa cosa, ma solo nei termini in cui ha spiegato Massimo. Pare che sia arrivato questo permesso, insomma, che ci sia la possibilità di fare la manifestazione, e credo che comunque, diciamo, rientri in un discorso che in questo momento noi stiamo vivendo, almeno qua dalla piazza, molto in positivo, vedo che pian piano stiamo iniziando a sgretolare questa rete di divieti che stavano costruendo, però altri elementi certi in questo momento non ne ho. Comunque rimane il dato che, come dicevi prima, insomma, la piazza appare, seppur leggermente, però blindata in un certo senso, siete di fatto circondati. Anche la corrispondenza di Gabriel prima ci raccontava che le vie d'ingresso a Piazza del Nettuno erano tutte presidiate. Sì, sì, assolutamente, cioè in questo momento noi siamo in Piazza Nettuno, abbiamo preso più o meno tutta la piazza, insomma, ma c'è polizia da entrambi i lati, da entrambi gli sbocchi. Però ecco, per fortuna approfitto che siamo in diretta proprio in questo momento, perché pian piano stiamo iniziando a muoverti verso uno dei lati della piazza e stiamo provando a partire in corteo. Quindi adesso seguiamo la situazione, stiamo partendo con insomma, le bandiere, situazione estremamente tranquilla verso uno dei lati del corteo. La folla grida corteo, corteo, c'è polizia, non so se sentite, c'è polizia davanti in assetto antisommossa, per ora tutto abbastanza tranquillo, però insomma stiamo provando a partire col corteo, la polizia vieta l'uscita dalla piazza assolutamente, sono schierati, hanno preso scudi, manganelli e tutto, ancora relativamente tranquillo, uno striscione davanti, Digos in mezzo e quello che non vuole proprio farci uscire dalla piazza neanche di un metro. Noi stiamo provando a uscire dal lato della T, insomma verso via Indipendenza, diciamo, via Ugo Bassi, e in questo momento però non riusciamo a fare proprio neanche un metro fuori dalla piazza. Bene, ti chiederemo se riesci a rimanere in linea altri 30 secondi eventualmente per spiegarci quello che succede, insomma, comunque il corteo ha provato a partire. Esatto. Sentiamo ancora, sentiamo le urla dei manifestanti. Ci stiamo muovendo lateralmente, stiamo provando a vedere se c'è un lato da cui passare, davanti alcuni degli organizzatori del corteo, compagni del sindacalismo di base, alcuni dei firmatari dell'appello, anche Monteventi, altri di Bologna Città Libera che tentano un minimo di discussione, di trattativa, di gruppo di contatto, così. Per ora però la polizia è schierata su tutta l'uscita della piazza, non sembra che si riesca a passare. Direi che possiamo interrompere questo collegamento, sentiremo l'altro corrispondente tra pochissimi minuti, contattaci se ci sono altri elementi di rilievo o altri compagni che possono essere intervistati. Assolutamente, volentieri, a dopo. Ciao. Ciao. Ciao. E sono le 16:20, siamo sempre in diretta web streaming da Via Paolo Fabbri 110, la newsroom di Zic, e abbiamo sentito un momento cruciale, si sta forse rompendo il divieto, sta partendo un corteo dal presidio in Piazza del Nettuno, e sabato è un'ordinanza prefettizia lo vieta, come dicevo prima è stato un percorso di avvicinamento alla data di oggi che è passato per un'assemblea pubblica promossa da 100 delegati dei sindacati del patto di base e che ha visto appunto una netta opposizione a questa direttiva e all'istituto dello sciopero virtuale, a questa invenzione del nostro frizzante governo per cui per scioperare si va a lavorare e non si riceve la paga, e se può sembrare una presa per il sedere è perché lo è. C'è stata questa assemblea pubblica, hanno aderito diverse realtà cittadine al corteo di oggi, centro sociale Crash, l'officina VAG 61, Sinistra Critica, il PCE dell'Assemblea Antifascista Permanente. E direi che dopo un brevissimo stacco musicale sentiremo l'altro nostro inviato della Piazza Gabriel, che dovrebbe essere in con appunto un compagno dell'Assemblea Antifascista Permanente per un'altra valutazione della situazione. Ma ora riposiamoci le orecchie per un paio di minuti e vediamo music. Cosa ci offre il nostro regista Jack. Io un cannone me lo merito, un mica non me lo merito. E anche se non me lo merito, per te me lo fumo io, subito. Io una bella cantagione sul balcone, ognuno la sua è la migliore soluzione. Quando ce l'ho accanto c'ero mucchio e canto, la mia chilata d'erba me ne fa. Salciate fine la mia nigeriana, posso averla del Kedama, del Cine, dell'Amazzonia, o anche originale delle grotte Tora Bora. Se mi sono buoni di combinazione, dicevi ok la prossima generazione, crescerà abbondante grassa sul balcone, l'ho messo a cielo aperto, c'è anche l'impollinazione, i balconi dei vicini avranno super limoncini, scegli quanti sono mille buoni motivi, il mondo così è più libero, io seguo volteggi crescendo il mio albero. Un cannone me lo merito, io un cannone me lo merito, un cannone me lo merito. E me lo fumo tutto subito, io un cannone me lo merito, io un cannone me lo merito, e anche se non me lo merito, me lo fumo tutto subito. E oleosa e generosa di cime, ha un sapore vero super sottile, fate casa cresce bene l'erba, è raffinata come sabbia di Gerba, la stagione buona più buona è la terra, finirà che tiro su una serra, sarò il mio solo spacciatore, non mi sfrutto, sarò il produttore, il contadino più fedele che attende le mele. Marijuana più viene l'appetito, è carburante un affare pulito, esce dritta dritta dalla piantagione, quella sul balcone è la migliore soluzione. Io ho fatto la mia scelta, mi muovo la svelta, l'elicottero in cielo, volteggio amici. 16:26 Zic Radio, la situazione si sta evolvendo in piazza Nettuno, dove abbiamo in collegamento Giorgio dell'Assemblea Antifascista Permanente. Che succede? Ciao, abbiamo provato a muoverci in un senso e in quell'altro, ma sostanzialmente hanno bloccato la piazza, quindi non siamo riusciti a uscire da piazza Nettuno. Noi come Assemblea Antifascista siamo qui perché riteniamo che questa ordinanza prefettizia sia non solo inqualificabile, ma che abbia un carattere autoritario, repressivo, assolutamente intollerabile, e soprattutto sottolineiamo con forza come in questa campagna elettorale verranno concesse piazze a partitini e organizzazioni neofasciste. Ci sono 7 liste neofasciste che si presentano alle elezioni e nello stesso tempo si toglie la possibilità di manifestare sabato e domenica a tutti. Quindi da una parte si sottraggono le piazze a coloro che manifestano il disagio sociale, la difficoltà, diciamo, dell'esistenza, problematiche vari eccetera, e dall'altra invece si concederanno piazze ai fascisti per la loro campagna elettorale. Grosso modo adesso la piazza è ferma, i tentativi di uscita sono stati inutili, i carabinieri si sono schierati in tenuta antisommossa a bloccare l'uscita verso Piazza Maggiore, ci sono circa 500-600 persone in piazza. Grosso modo questa è la situazione comunque è abbastanza calma per ora, sostanzialmente tranquilla. Vuoi chiedermi qualcosa? No, direi che sei stato assolutamente esaustivo. Se nessuno degli altri redattori che sono con me in studio ha altre domande, possiamo sì, c'è un gran caos, nel senso che ci sono delle trombe che suonano. Però per il resto sì, è tutto molto tranquillo. L'iniziativa secondo me è riuscita, particolarmente riuscita, nel senso che la partecipazione c'è stata, ci sono veramente moltissimi gruppi bolognesi, sindacati eccetera, e io personalmente sono soddisfatto. Bene, ti ringraziamo e torniamo in studio. Sono le 16:29, quindi non è riuscito il primo tentativo di muoversi in corteo, non sappiamo ancora se ce ne saranno degli altri, però il dato positivo è una buona partecipazione a questo momento di piazza, che comunque non è stato impedito militarmente dalle forze dell'ordine e da questura e prefettura. Noi direi che possiamo ascoltarci un altro pezzo, se la regia è pronta. I'm they tend to wiggle when they walk. The infrastructure rots, and the owners hate the jocks with their agents and their dates. If the signature's a check, you'll just have to wait. And we're counting up the instants that we save. Tired nation so depraved, from the cheap CCS wave to the camera. It took a giant ramrod to raise the demon settlement. But hey, silver rat. I wonder if he speaks like an ordinary guy. I know him, and he does. And you're my fact-checking cub. We'll focus on the quasar in the mist. The Kaiser has a cyst, and I'm a blank one. List the qualms you have, and if they stick, they will drown you in a creek, in the neck of a woods that was populated by tired nation on the fly. Everybody knows advice that was given up for free. Lots of details to discern, lots of details, but high hopes. wish the bastards dropped down dead. Next time you see me, I may be smiling. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. I'll be in prison or on the TV. Ed erano i Chumba Wamba in una versione quantomeno peculiare di Bella Ciao, una chicca che ha tirato fuori dal cilindro il nostro regista Jack. E noi facciamo una piccola divagazione, visto che in piazza la situazione sembra essersi tranquillizzata, e ci occupiamo di un altro degli elementi che concorrono in queste ultime settimane a delineare il quadro di una stretta, repressiva e autoritaria, assolutamente inquietante. Ed è ovvero un elemento al vaglio delle Camere del pacchetto sicurezza che appunto il Parlamento sta discutendo, ovvero il decreto che autorizza o forse obbliga, a seconda della formulazione con cui potrebbe passare questo provvedimento, i medici, gli operatori sanitari a denunciare i migranti clandestini senza permesso di soggiorno che chiedessero cure sanitarie. Si tratta di una cosa assolutamente grave, in primo luogo dal punto di vista dei diritti della persona, come è facile intuire, e in secondo luogo perché così si dà la possibilità di diffondersi a malattie magari infettive che non vengono curate dalle persone affette per il timore di venire espulse dall'Italia per questo, e quindi possono degenerare in epidemie. Per queste e per altre ragioni, comunque le voci contrarie a questo provvedimento sono numerosissime. Lo stesso Ordine dei Medici di Bologna tramite il suo presidente ha messo in campo la possibilità di radiare dall'albo i medici che denunciassero i migranti, perché ciò sarebbe estremamente contrario alla deontologia professionale, al giuramento di Ippocrate. C'è stato a Bologna martedì scorso e contemporaneamente in molte altre città italiane una manifestazione molto partecipata per denunciare questo aberrante provvedimento. Si può parlare di un migliaio di persone in piazza. Sì, appunto, manifestazione molto partecipata, quella a cui insomma molti di noi hanno partecipato l'altra sera sotto Palazzo D'Accursio in Piazza Maggiore, appunto piazza che era per una buona metà, e Piazza Maggiore è molto grande, gremita di migranti, studenti solidali contro questa misura del pacchetto sicurezza che di fatto nega per una certa categoria di persone il diritto alla salute, che invece è sancito come un diritto inalienabile e assoluto, universale per tutti e tutte. Le persone e non solo i cittadini, appunto ha visto la partecipazione di molti migranti, studenti, medici, come ha ricordato prima Zeppe, anche il fronte dei medici di Bologna ha preso posizione su questo decreto legge, folta partecipazione anche di dottorandi, quindi studenti di medicina che appunto si oppongono ad un decreto che riguarderà in maniera molto stringente il loro prossimo futuro, e che per la loro sensibilità e per la loro deontologia va ad attaccare dei diritti fondamentali e va a minare anche insomma quella che è il collante poi di una qualsiasi società che si dica democratica o meno, anche in generale, che è un principio di solidarietà minima universale, per cui soprattutto per quanto riguarda questi problemi, quindi, cioè, si parla della salute e quindi di cose che, insomma, mettono in gioco qualcosa di molto importante per tutti gli individui, per tutti e tutte, e quindi sono scesi in piazza in maniera molto determinata, un presidio che ha visto numerosi interventi dal sound system che era presente alla manifestazione, numerosi gli striscioni anche che appunto si opponevano al a questo provvedimento, insomma, e numerose anche le realtà che hanno aderito, tre varie associazioni di medici, associazioni di volontariato, il coordinamento migranti e anche il gruppo studentesco di medicina Prometeo. E proprio di Prometeo, Zic, negli scorsi giorni, dopo il presidio di martedì, ha sentito una studentessa componente del collettivo, e vi riproponiamo questo audio. Buonasera, io sono una studentessa del gruppo Prometeo della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Bologna. Noi siamo qui oggi per tre motivi. Il primo, come ha già detto Chiara di Sophos, è per cercare di bloccare l'iter che porterebbe all'approvazione di questo pacchetto sicurezza. E abbiamo ancora la possibilità di farlo, e speriamo che questo movimento sociale, il fatto che ci sia una coscienza forte in questo paese, non solo da parte dei sanitari, ma da parte di tutti i cittadini che ci stanno sostenendo con le loro firme, speriamo che questo non resti inascoltato, speriamo che sia veramente possibile bloccare questo scempio prima che nasca. E purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di bloccarne già gli effetti precedenti ancora alla sua approvazione, quello di cui parlava Chiara. La seconda cosa il secondo motivo per cui siamo qui oggi è per chiedere che, qualora questo pacchetto venga approvato, la Regione si faccia carico di attuare dei provvedimenti per contrastarlo attivamente, che non siano solo parole. Noi abbiamo bisogno di provvedimenti chiari e forti. Il terzo motivo per cui siamo qui stasera è, personalmente, come studenti di medicina, forse è anche quello che ci preme di più, è per parlare alla gente che sta passando in questa piazza questa sera e per smentire tutta la valanga di bugie che sono state dette su questo pacchetto sicurezza. E lo dico in presenza della stampa, voi avete una responsabilità con le vostre penne. Stiamo attenti alle bugie che sono state dette, delle bugie a volte talmente stupide da risultare quasi ridicole. Beh, però a noi non fanno ridere quando queste bugie ricadono sulla salute di tanta gente. E le bugie sono state dette su tutto il pacchetto sicurezza. Noi qui non siamo solo per parlare dell'emendamento che porterebbe i medici a denunciare gli irregolari, perché se è vero ed è vero che la mancanza di permesso di soggiorno crea già di per sé malattia, che un lavoro non sicuro crea di per sé malattia, che la condizione di precarietà e di emarginazione creano malattia, allora noi non possiamo che essere contro tutto il pacchetto sicurezza, contro l'approvazione di tutto il pacchetto. E noi siamo qui quindi per parlare alla gente, per smentire le stupidaggini che sono state dette, per ricordare qual è la verità. I diritti civili, i diritti umani di una parte della popolazione, allora nessuno di noi potrà più sentirsi al sicuro, perché chiunque si senta al sicuro allora sarà o cieco o ipocrita. Quando si lede un diritto fondamentale come il diritto alla salute per qualsiasi essere umano, gli altri esseri umani si devono sentire chiamati in primo luogo a rispondere e a chiedersi: io di quale minoranza farò parte domani? mentre va in sottofondo Miami dei CCCP. No, abbiamo appena finito di ascoltare l'intervento dal sound system del presidio di martedì scorso. Noi non segnaliamo di una segnaletta del gruppo Prometeo, e nessuna novità per ora dalla piazza, dove prosegue il presidio contro il divieto di manifestare, contro la direttiva Maroni e contro la riforma dello sciopero. E direi che possiamo ascoltarci con calma il CCCP e magari provare a ricollegarci tra poco con la piazza. E te l'ha allucinato, la situazione estrema, un grande sogno limpido, che rende la tua pelle, non si sentiva ardire, una morosa quiete, una morosa quiete. Sfiorarti come a caso, con l'aria imbarazzata, atmosfera pesante, e non c'è la tensione, tranquillità assoluta, tranquillità assoluta, tranquillità assoluta. Un movimento, un'estasi, su un punto delicato, questo Bene, dovremmo avere al telefono Andrea, studente che partecipa all'Onda Anomala per due valutazioni, insomma, su come stanno andando le cose su questa giornata di mobilitazione. Sì, è una giornata importante perché in palio c'è in qualche modo il diritto a manifestare, cioè l'agibilità dei cittadini e dei movimenti sociali di poter attraversare pubblici, le strade, le piazze senza divieti per costruire dentro gli spazi pubblici territori di condivisione e di presa di parola. Un tema quindi quanto mai importante alla luce della crisi allo stesso tempo, cioè di questo processo di declassamento complessivo della forza lavoro metropolitana, e quindi una giornata importante in cui c'è una presa di parola contro l'assurdità del decreto Maroni e la sua traduzione bolognese messa in campo da prefetto, buona parte del corpo politico e sindacale di questa città e dal sindaco sceriffo Cofferati. Quindi ecco, una giornata importante, un presidio molto partecipato, la voglia e la determinazione, che certamente non si esaurisce oggi, di rimettere al centro la produzione dei diritti, in primis affermando che il diritto a manifestare è un coefficiente politico fondamentale per la cittadinanza e per i movimenti sociali. Noi come studenti siamo qua in moltissimi, abbiamo organizzato un pettinaggio e abbiamo preparato anche degli adesivi da distribuire in cui c'è scritto "Oggi io manifesto". Vabbè, abbiamo appunto fatto questo volantinaggio a partire dalle due torri, parlando con molte persone della situazione. Ovviamente, essendo studenti, ci viene in qualche modo automatico legare l'azione di comunicazione, di denuncia di oggi a quanto è successo solo pochi giorni fa alla Sapienza, in cui un movimento, appunto, l'Onda Anomala, stava uscendo dalle mura della zona universitaria per attraversare la città a Roma e questo corteo, come sapete, penso tutte e tutti, è stato salvagente caricato dalla polizia del governo Berlusconi. Ecco, un dato inaccettabile che pone direttamente la questione, penso a tutti e a tutte, su che cosa, quale sia lo stato della democrazia nel 2009 in questo paese. Bene, ti ringrazio. Ci sentiremo ovviamente qua anche per le prossime iniziative che metterà in campo l'Onda Anomala. Per ora direi che dalla piazza possiamo chiudere qui. Va bene. Ciao Zeppe, buona giornata a tutti e a tutte. Ciao Andrea. Ciao. E noi torniamo in studio, sono le 16:57, ripercorriamo magari anche come si è sviluppata questa giornata, e magari chiedo alla regia di mettere la musica, un po' più musica e meno parlata, per poterla tenere in sottofondo. Piccola comunicazione di servizio. Insomma, sì, il concentramento alle 3:30 è stato sin dall'inizio partecipato, centinaia di persone in piazza del Nettuno. Verso le 16:15 si è il presidio, che aveva ottenuto un'autorizzazione in extremis ieri sera dalla questura, e ha cercato di partire in corteo verso varie direzioni senza di fatto riuscirci, e come ci hanno raccontato i nostri corrispondenti. In attesa di un altro audio, magari appunto dai nostri stessi corrispondenti, se non ci sono altre cose, direi che possiamo restituire insomma la linea alla musica. Eccoci di nuovo in diretta da Zik Vag 61. Ci è arrivata una velocissima news dalla piazza, che pare che ci siano insomma aggiornamenti dalla piazza. Alvin, sei in linea? Sì, ci sono, vi sento bene. Ma niente, ecco, ci puoi spiegare cosa sta succedendo? Sì, c'è un nuovo tentativo di uscire dalla piazza e partire in corteo verso via Indipendenza, Ugo Bassi. Insomma, siamo nella parte, quindi diciamo, bassa di Piazza Nettuno. Già prima, dopo che ci siamo sentiti l'ultima volta, c'erano stati un paio di tentativi da entrambi i lati della piazza. La polizia continua a tenere completamente blindata la piazza. C'è una situazione surreale, è difficile uscire anche alla spicciolata proprio. Cioè, siamo praticamente chiusi dentro, è una situazione assurda. E in questo momento, di nuovo, il corteo è partito dalla piazza per provare a fare pressione, per provare a uscire dal lato di via Indipendenza Ugo Bassi. C'è di nuovo davanti polizia in assetto anche sommossa, in questo momento è situazione relativamente tranquilla, insomma nessuno scontro così, però polizia schierata, scudi e tutto, ovviamente camionette dietro, cori sia diciamo corteo sia cori proprio contro la polizia dalle prime file dei ragazzi della manifestazione e niente, diciamo fronteggiamento. Ecco, mi chiedono qui dalla regia se ci potevi aggiornare insomma sulla presenza e la disposizione della polizia in piazza, insomma. Ma guarda, è semplice da spiegare, cioè tanta e dappertutto, nel senso fin da subito si spostano anche poco, nel senso tengono proprio chiuso da tutti i lati, cioè, soprattutto polizia dal lato di sotto, appunto dove siamo adesso, verso via Indipendenza Ugo Bassi, mentre dal lato di sopra erano soprattutto carabinieri. Adesso un gruppo di compagni con uno striscione è riuscito a entrare in strada, proprio in questo momento. Quindi c'è comunque polizia, solo un gruppo è riuscito a passare, gran parte di noi siamo comunque chiusi, siamo dentro la piazza, ma c'è un gruppo che è in piazza con uno striscione, sta bloccando il traffico su via, diciamo tra via Rizzoli e via Ugo Bassi, insomma subito davanti alla piazza. Ecco, infatti, quindi comunque almeno un blocco del traffico davanti a sé, qualcuno è riuscito. Infatti sentiamo i clacson delle auto, esatto, in strada, e questo mi portava a chiederti una valutazione sul fatto che comunque si può dire, tanto sentiamo i rumori della piazza che manifestano la loro voglia di partire, dunque ti chiedevo una valutazione sul fatto che comunque da quanto sembra si può dire che siete stati accerchiati e di fatto vi è stata impedita in qualche modo anche la possibilità di comunicare con la gente che passava. Sì, sì, guarda, la valutazione è che è un fatto gravissimo, cioè io personalmente non avevo mai assistito a una cosa del genere, cioè normalmente in questi casi al limite si tratta sul percorso del corteo, vogliono fartelo fare più corto o così via, ma che ti blindino in piazza da tutti i lati pretendendo di non farti uscire è una cosa veramente pazzesca. Cioè, detto ciò, comunicazione con la gente in qualche modo c'è stata lo stesso, perché per fortuna poi Piazza Maggiore, Piazza Nettuno, se non c'è anche la Sala Borsa e tutto, è comunque un luogo di passaggio. Cioè, la situazione assurda era che appunto persone comuni che non c'entravano col corteo passavano in piazza dentro, ci vedevano, magari ricevevano il volantino, materiale, cercavano di capire cosa stesse succedendo e potevano entrare e uscire tranquillamente, e noi quasi riconosciuti a persona, proprio chiunque avesse un patacchino, un volantino, uno striscione, una faccia conosciuta, così eravamo bloccati dentro, non potevamo uscire neanche a gruppetti proprio. Quindi sì, una situazione assurda. Una zona temporaneamente militarizzata. Esatto, una zona in questo momento assolutamente militarizzata, con la polizia che fa proprio anche il riconoscimento personale. Cioè io stesso adesso mi stavo muovendo verso, diciamo, per uscire dalla piazza e vedere cosa stavo succedendo lì in strada, e sono appena stato bloccato perché mi sono solo di passo, insomma. Ah. In questa comunque zona temporaneamente militarizzata i diritti sono discrezionali e personali. Sì, sì, assolutamente, vanno proprio a riconoscimento personale in base a se ti conoscono o come sei vestito. Ecco, in questo momento c'è comunque un gruppo di compagni che, come vi accennavo, è riuscito a passare di là dal cordone di polizia, quindi ci sono, non riesco a vedere esattamente quanti, ma qualche decina di compagni con anche uno striscione e un paio di bandiere di là dalla polizia. C'è un parziale blocco del traffico davanti alla piazza, però ovviamente non saranno in condizioni di tenerlo per molto. Noi siamo il più vicino possibile, stiamo provando a dargli supporto, ma siamo comunque bloccati perché in questo momento c'è tanta polizia schierata con anche macchine e camionette dal lato, diciamo, basso della piazza. Quindi insomma la tensione si sta alzando o rimane comunque determinata ma tranquilla? per ora determinata ma tranquilla, nel senso la tensione la stiamo tenendo bassa noi dalla piazza, perché comunque si era scelto di gestire la giornata, gestire l'iniziativa senza cercare proprio la forzatura, lo scontro di piazza proprio. Dal punto di vista della polizia direi che la stanno gestendo nel modo, come dire, più aggressivo possibile, perché non si lasciano possibilità addirittura proprio di uscire dalla piazza neanche a gruppetti, sì, sì. E se la situazione non degenera è perché comunque da parte dei manifestanti oggi c'è un grande senso di responsabilità e diciamo questa scelta che si era fatta di far pressione, far vedere la situazione, far capire questo meccanismo proprio di restringimento, azzeramento dei diritti e delle libertà, ma senza arrivare proprio allo scontro di piazza. Quindi nonostante insomma la questura abbia mostrato i muscoli, non c'è stato alcun impatto fisico diciamo con le forze dell'ordine? No, per ora no, anche se comunque tra i primi compagni più avanti e i primi cordoni di polizia ci sono pochi centimetri proprio, c'è una situazione di contatto in cui però non si prova proprio diciamo la forzatura vera e propria. Mm-hmm. Quindi non si accettano provocazioni. Ecco, una... Esatto, esatto. Un'ultima domanda, la partecipazione è ancora quantificabile in circa 500 persone? Sì, direi di sì, cioè, forse è leggermente cresciuta rispetto a prima, c'è stata una fase in cui sì, forse siamo stati anche 700-800, adesso sì, direi che è stabilizzata. Ecco, in questo momento... anche io sono riuscito a passare, sono in strada. Oh, bravo. C'è qualche decina di persone che è riuscita a arrivare qua nella strada, il traffico è bloccato e c'è questa situazione strana in cui siamo in questo momento da entrambi i lati della polizia diciamo, ma sound system, bandiere, striscioni, insomma tutte le componenti un po' più organizzate non possono uscire dalla piazza. Diciamo, c'è la polizia che blocca, anche se alcuni di noi sono riusciti in questo momento, io stesso, a uscire dalla piazza e venire più verso la strada. Bene, direi a questo punto. Dal corteo in questo momento si alza il grido libertà, libertà, e con la polizia che continua a tenersi chiusi, blindati in Piazza Maggiore. Immaginiamo la scena paradossale che ci stai raccontando molto bene, cioè nonostante essere in una delle piazze centrali di Bologna, immaginiamo che essere circondati da forze dell'ordine che non ti permettono neanche di muoverti da una parte, cioè, insomma, da una parte all'altra del marciapiede, sia una cosa abbastanza paradossale che il grido libertà non sia assolutamente fuori luogo in questa situazione. Sì, sì. Tra l'altro, adesso che sono più sulla strada, vedo proprio anche le persone intorno che non c'entrano con la manifestazione, che guardano cercando di capire un po' cosa sta succedendo, nel senso che raramente si vede una situazione di corteo così, tra l'altro senza nessun tipo di protezione, senza casi, senza neanche nessuno col volto coperto così, che viene lasciato chiuso praticamente dentro la piazza e anche i passanti proprio cercano di capire cosa succede, c'è una situazione veramente strana. Mi crederanno degli indiani. Sì, bene, direi che... tu continua magari a coordinarti anche con l'altro corrispondente Gabriel, che ho sentito un attimo fa e dovrebbe essere lì vicino a te, e uno di due insomma ci contatti al primo sviluppo, noi magari ci prendiamo un attimo di pausa. Perfetto, a dopo, ciao. Ciao Ale. Ed è insomma una situazione assolutamente paradossale, direi, quella che i nostri corrispondenti e tutti i manifestanti stanno vivendo in Piazza Nettuno, una piazza, ora possiamo dirlo, del tutto militarizzata, in cui un flusso comunque consistente di persone sta cercando di muoversi in corteo, sta cercando di spostarsi quantomeno all'incrocio della T, all'inizio di Via Indipendenza, ma con una fatica incredibile, direi quindi un pezzo musicale e ci torneremo tra pochissimo in diretta. Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va, perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima

per il previsto corteo. Ma vogliamo un attimo tornare a capire come si è arrivata a questa situazione e alla direttiva Maroni che faticosamente si sta cercando di violare in questo momento in centro a Bologna. Sì, ecco, magari in attesa anche di nuove news direttamente dalla piazza, insomma, volevamo provare a ricordare anche che in particolare la direttiva Maroni sul divieto a manifestare nasce anche sull'onda delle polemiche che si erano scatenate in occasione delle manifestazioni, si può parlare di manifestazioni oceaniche delle comunità arabe, dei migranti e di tutte insomma le persone solidali con quello che stava avvenendo un paio di mesi fa a Gaza, e quindi l'aggressione, l'invasione da parte dell'esercito israeliano alla striscia di Gaza, con un altissimo numero di civili morti, devastazioni spaventose che probabilmente lasceranno la popolazione civile di Gaza in uno stato di povertà per anni. E appunto sull'onda di quelle polemiche, sulle polemiche in particolare rispetto a quelle scene che alcuni ultra integralisti cattolici avevano visto come il simbolo dell'invasione islamica nella civiltà cristiana occidentale, stiamo parlando delle preghiere che insomma si sono svolte in occasione delle manifestazioni di solidarietà al popolo di Gaza in molte città italiane, tra cui Bologna, che insomma ricordiamo appunto ha ospitato una manifestazione molto partecipata che si è conclusa con una preghiera in Piazza Maggiore. E proprio partendo da questo pare che insomma si sia iniziato a ragionare su delle limitazioni al diritto di manifestazione. Addirittura in principio si parlava di difesa della morale pubblica, intendendo con questo la difesa della morale ultracristiana, perché non pensiamo che tutti i cattolici siano d'accordo con Maroni e con gli esponenti ciellini della destra oggi al governo. E però insomma, andando poi a spulciare quello che dice questa direttiva di Maroni, si scopre il fatto curioso che tra i tipi di manifestazione a cui appunto, per cui appunto vige questa restrizione del diritto a manifestare nel weekend in centro, non è stata insomma messa in rubrica, non sono state messe in rubrica le manifestazioni religiose, perché evidentemente dopo un'attenta consultazione con insomma rappresentanze cattoliche, questo poteva essere una limitazione alle stesse processioni religiose che ogni anno, in vari momenti dell'anno, penso in ogni parte d'Italia e anche del mondo, si svolgono da ormai decenni, ma si può parlare di secoli, per cui insomma anche questi stessi signori che con tanta foga si sono opposti, si sono fedeli di un'altra fede pregare nelle loro piazze e davanti alle loro chiese, poi si siano dovuti insomma fare un attimino un ritorno alla ragione, perché nella foga di vietare o comunque restringere i diritti altrui rischiavano di restringere i loro stessi diritti, che invece per 365 giorni l'anno tentano benissimo di difendersi con appunto le loro rappresentanze e tramite insomma maggioranze in Parlamento o in altre situazioni che hanno potere male rispetto a questi temi. Ciao a tutti. Ok, questo incipit era per presentare la nuova voce di Zik di quest'oggi. Questa è una radio jam session, ci alterniamo nei pezzi vocali un po' per uno, insomma. Ok, infatti ora è intervenuto al mio fianco Walter. Secondo i più, diciamo, moderni canoni radiofonici poi degli Stati Uniti, e che si tengono anche nei paesi asiatici, insomma, stiamo ammodernando il panorama radiofonico nazionale, sì. Noi. Al Jazeera ci aspetta. Sì, sempre. E trema di fronte al nostro impero comunicativo. E i nostri 7 utenti sono qui a dimostrarlo, insomma. Insomma, possiamo chiedere anche qualche finanziamento per pubblicità varie. Con 7 utenti abbiamo già un target molto alto. Sì, penso che la Goleador ha già contattato per una sponsorizzazione. Ma qualcuno ci telefoni di questi 7 utenti? 051-588-0406, 051-588-0406, il nostro numero per intervenire in diretta. Comunque, David, volevo, insomma, la considerazione che volevo fare è che... Dario, scusa, sai, il THC fa scherzi con la memoria. Insomma, dicevo, è una situazione veramente angosciante questa per il cittadino italiano, insomma, non è più sicuro nemmeno dalla polizia, da niente, è blindato da tutte le parti, ci sono delinquenti al governo, insomma, c'è un problema sicurezza forte, ma nel Parlamento in particolare. Attenzione, sta arrivando una chiamata, che il nostro avviso abbia portato consiglio ai nostri ascoltatori. Vai. Pronto? Ci sei? Sì. Ciao, come ti chiami? Loris, mi chiamo Loris. Ciao Loris. Sei uno dei 7 ascoltatori che ci stanno seguendo in questo momento, o dove ti trovi, insomma? Ciao a tutti, vi sto seguendo. Da dove? Mi trovo a Roma, vi sto seguendo. Bella Lori, bella Roma, bella voi, da paura, insomma, una trasmissione molto interessante. Grazie. Ti ringraziamo soprattutto per pagare la bolletta telefonica per telefonarci, insomma, è un grande gesto di generosità nei confronti di Zik Radio. No, io credo che, insomma, questa trasmissione in streaming, insomma, mi stia tenendo compagnia in un momento felicissimo della mia vita, quindi, insomma, vi ringrazio. Ecco, che cosa c'è, Loris, che ti cruccia? Ecco, il nostro angolo psicologico. Ce lo puoi dire via radio oppure no? Santo, cosa siamo in pochi, siamo in 7. Che cosa c'è, che problema c'è, Loris? Perché è un momento particolare della tua vita? No, vabbè, niente di che. Poi magari vi racconterò quando ritorno su a Bologna. Però, insomma, mi trovo per delle cause qui a Roma. Insomma, mi ha fatto molto piacere seguire la vostra trasmissione. Grazie. E quindi, che ne pensi, insomma, tu, Loris, anche a distanza, visto che poi anche a Roma abbiamo visto che questo decreto, questo divieto di manifestare ha già prodotto le prime vittime? Vi sento che parlate in due, mi parla Dario da una parte e tu da un'altra, non lo so, no? Vi sento in due. Devi abbassare un po' la radio, Loris, perché devi abbassare un po' la radio. Ah, ok, ecco. Perché se no c'è un po' di lag. Ah, ok. Comunque, Loris, noi ti ringraziamo tantissimo della telefonata, sei stupenda. Due bellissime parole. Un gesto di solidarietà accalorato per questi 4 persone in questo studio infreddolito. E ti aspettiamo al tuo ritorno a Bologna per festeggiare. Insomma, starti vicino. Grazie a voi. Assolutamente. Vi verrò a trovare appena salgo. Scusaci, Loris, ma dobbiamo chiudere con te perché ci arrivano delle telefonate. Il telefono è caldo in questo momento. Delle chiamate dalla piazza. Aggiornamenti dalla piazza. Va bene. A dopo. Ciao. Buona lavoro, Loris, buone cose. E allora, intanto che aspettiamo di, appunto, questi aggiornamenti dalla piazza, Walter, dovresti chiamare il nostro inviato in loco. Vogliamo sentire un po' di musica mentre cambiamo. Ma ci starebbe proprio un po' di musica. Poi mi sa che DJ Jack è molto caldo, lo sento molto caldo quest'oggi. È caldissimo, quindi... meno male che c'è lui che ci scalla, perché sennò qua se morimo de freddo. E allora, bando alle ciance, parola alla musica. Dei monologhi lava sul volto. E lei viene e ha il passo più lungo. Quando dice buongiorno, piscerai sulla Banca d'Italia, ma non fuggirai il grembo. Giusto il deserto, questo è il giorno che piove negli occhi. Vai. Questo è giusto il deserto. Siamo di nuovo in diretta con Alvin dalla piazza, che ci informa sugli ultimi aggiornamenti in corso in questo momento in piazza. Ma dunque, la situazione è sempre abbastanza strana, tutto sommato, se vogliamo, se è voluta in positivo, siamo riusciti a uscire dalla piazza, abbiamo rotto l'accerchiamento, prima alcuni ragazzi, come vi iniziavo a dire nel collegamento prima, insomma, sono riusciti a uscire passando da dietro, hanno iniziato a bloccare il traffico, c'è stato per un bel po' fronteggiamento, non si capiva bene, la polizia comunque continuava a tenere bloccata l'uscita da Piazza Nettuno. Poi finalmente, sempre di più, passando da dietro, dalla sala borsa, da tutte le parti, sono riusciti ad arrivare in strada, e a quel punto la polizia ha lasciato uscire dalla piazza. In questo momento siamo appunto, diciamo, all'inizio proprio di via Rizzoli, praticamente alla T, traffico ovviamente bloccato, cordoni di polizia, abbiamo provato a partire in corteo, con davanti lo striscione Libertà di Lotta, lo striscione unitario, che siamo un po' d'apertura del corteo, stanno bloccato da tutti e due i lati, non c'è verso di fare il corteo da nessuna delle due parti. C'è cordone di polizia da entrambi i lati e i compagni chiusi in uno spazio anche estremamente piccolo, proprio tipo nell'ordine di 30-40 metri, tutti stipati, quindi situazione anche abbastanza di tensione, ma con in realtà poi anche compagni che sono già di là, anche da questo cordone di polizia. Quindi di nuovo una situazione abbastanza surreale. E c'è stato un momento in cui praticamente eravamo noi ad aver circondato il cordone che non voleva farci uscire dalla piazza. Ascolta, in quanti siete? Sono Sirio, ciao. In quanti siete? Ciao. Più o meno? Guarda, più o meno quelli di prima, perché in questo momento non c'è né più un'unica piazza, ma neanche un corteo, perché non si fanno partire. Quindi è difficile dare un numero, però direi sempre nell'ordine di quelle 500 persone che eravamo prima. In questo senso il grosso di noi sono all'inizio di via Rizzoli, bloccati davanti e dietro dalla polizia, qualcuno ancora più su dalla piazza e qualche tura già di là dal cordone di polizia, più diciamo verso via Ugo Bassi. Non ci fanno partire col corteo, ma ovviamente la situazione è surreale, scappa di mano anche a loro, perché non è che possono impedire alle persone di muoversi in tutto il centro di Bologna. Quindi insomma, ogni volta che fissano il cordone in un punto, poi c'è sempre gente che gli arriva alle spalle facendo qualche giro largo, perché non è che possono impedire proprio a tutti di muoversi, e quindi c'è questa situazione assurda in cui poi ovviamente arriva anche gente che è in giro, insomma, per i fatti suoi, passanti, lo shopping famoso del fine settimana e così via, che cercano di capire cosa succede, non capiscono perché ci debbano tenere bloccati qua. Quindi, no, gestione delle forze dell'ordine è pazzesca, cioè, nel senso, oltre a tutto il giudizio politico, ovviamente, sulla mancata libertà di manifestare, sul fatto che hanno provato proprio a chiudersi in piazza, che discriminavano le singole persone che potevano uscire o no e così via, anche proprio come gestione della piazza, surreale, illogica, cioè, non sa neanche loro da che lato bloccarsi, c'è solo questa indicazione che per nessun motivo può partire un corteo, e sto provando a metterla in pratica, ma... un clima surreale. Quindi, ciao Alvin, sono Walter. Ciao. Quindi possiamo dire insomma che il legislatore insomma non è capace a fare manco il lavoro suo, perché poi quando fa una direttiva poi sono loro stessi che non sanno nemmeno come applicarla, c'è un casino generale, insomma, pure sì, da un punto in questo di momento vista. Veramente, cioè, proprio l'aggettivo che mi viene da usare di più è proprio surreale, perché è una confusione incredibile. Prima è partita anche una piccola carica, c'è stato un accenno di carica, ma l'idea è che si è partita proprio per disperazione, perché non capivano da come muoversi, da che lato muoversi, hanno voluto in un determinato punto bloccare il flusso di persone, l'hanno fatto con due manganelle, sembra tutto tranquillo, nessuno sbaglia. Nel dubbio mena, sempre. Troppo male. Però esatto, proprio, sì, non sembrava neanche, come dire, una carica ordinata per volontaria pressione, ma proprio per disperazione non capivano più come muoversi, nel dubbio menano, potrebbero pure aver beccato giornalisti o persone che passavano per caso. Quindi prendiamo atto che anche i poliziotti vanno alla spicciolata in piazza. Sì, no, è vero, si stanno muovendo anche loro a prassimo per la spicciolata, gli arrivano ordini di qua di là, e noi vorremmo solo fare il nostro corteo fino alla prefettura e ci ritroviamo qua. Il caso italiano è veramente, ci offre sempre grandi possibilità di dibattito. Tiriamo fuori sempre il meglio. Il meglio, sì, sì. Esatto. In tutte le situazioni. Io penso che poi alla fine questa sia la naturale conseguenza di tentativi da parte della legislazione di impedire di ostacolare delle dinamiche di piazza che sono molto difficili da imbrigliare dentro le parole, perché giustamente c'è anche misure tipo il riconoscimento personale, nel momento in cui ci sono 30 persone si può fare, ma nel momento in cui cominciano ad essere 400-500, ecco, diventa abbastanza aleatorio e anche generatore di momenti di tensione ulteriori, perché poi metti che quello non si ferma, non ha capito, parte la manganellata, parte tutto quanto. Quindi potrei dire vedere decisione. Non proprio un altro, diatemi. Oggi è una ogna, noi cittadini, insomma, come noi che pagano le tasse, vedo la mia forza. Sì, sì, no. Tra l'altro dico anche proprio, come dire, se volessimo vedere dal loro punto di vista, noi sono almeno ormai mezz'ora, 40 minuti che siamo qui che blocchiamo il traffico alla fine, il punto proprio centrale, esattamente in quello dove non volevano farci andare, certo, farci manifestare al sabato. Per ora, se non ci fanno passare, l'impressione è che rimarremo ancora qui per un bel po' e bloccheremo molto di più il centro cittadino. Ora, proprio mentre sto parlando, situazione bellissima, appena arrivato un camioncino dei vigili del fuoco, dei pompieri, cioè è passato, hanno salutato, hanno fatto il pugno chiuso, cioè hanno solidarizzato. Sempre massimo rispetto. D'altronde esatto. Sono rossi. Esatto, e ovviamente dai manifestanti è partito il classico coro che potete immaginare, rispettiamo solo i pompieri, ma loro hanno risposto. Cioè. E anche noi ci accodiamo assolutamente a questo coro, trovo assolutamente concordi. Senti Alvin, ma i bolognesi finalmente hanno capito che cosa state facendo lì oppure no? Stanno provando a capire che succede, cioè, non saprei dire se proprio, come dire, hanno capito la nostra iniziativa, i motivi della protesta, come sempre, poi forse qualcuno di più, qualcuno di meno, così. Sicuramente però tutti hanno capito che c'è qualcosa di veramente strano che sta succedendo, e anche chi magari non condivide o non sa o non ha capito i motivi della nostra protesta, in questo momento si sta chiedendo perché cazzo non si fanno passare, insomma, vedono il traffico bloccato da tutti i lati, la polizia che prova a fermarsi, noi addirittura sia di qua che di là dalla polizia che vorremmo fare il nostro corteo, rimaniamo qua fermi. Sì, guarda, è appena arrivato un messaggio da un automobilista che è in coda a Casalecchio. Dice, che cazzo succede nel centro di Bologna? Apriamo uno spazio Isoradio e diciamo che le code a Casalecchio sono dovute a un forte ingorgo a Bologna Centro dovuto a giuste e legittime proteste dei manifestanti. Quindi avete venti di autoritarismo. Abbiate un po' di pazienza e datevi alla lussuria nelle code automobilistiche, perché insomma ce ne sarà da aspettare un po' di tempo. Prendete le fede. Ecco, in questo senso siamo anche in di più rispetto a prima, che siamo di là dal è caduta la linea improvvisamente. No, niente. È caduta la linea col nostro inviato dalla piazza. Adesso si può lasciare soli un momento. Vediamo se riusciremo a ripristinare in tempi brevi. Direi che intanto possiamo andare un po' di musica. La mia rivoluzione, no, non ricordiamo ai nostri 6 ascoltatori che se vogliono possono telefonarci, intervenire in diretta allo 051 58 80 406. Ripeto, 051 58 80 406. In particolare, se qualcuno ha una frequenza FM che non gli serve, noi avremo disperato bisogno, portatecela, cerchiamo disperatamente frequenza FM. Se avete in cantina, in solaio, sotto il materasso. Come? Sì, sappiamo che in primavera ci sono le classiche pulizie di primavera dove uno rispolvera cose dimenticate o accantonate perché non gli servono. Se trovate un atto dello Stato che vende una frequenza FM, io ci posso mettere la mia collezione di exogini, ve lo dico già. Sì, sì, sì, potremmo creare uno spazio di scambio di baratto. Di Cradio. Novità ad indicare metodi di vita. Novità ad indicare metodi di vita. Solo io e la mia rivoluzione. Solo io e la mia rivoluzione. E colpi di grazie è l'unica abbondanza che ci può saziare. Ci basterà. Monzo Panatta rivela Giovanni, Maurizio Costanzo, Mike Buongiorno, Villaggio Raffa Guccini. Onorevole Eccellenza, Cavaliere Senatore, Nobiltone Eminenza, Monsignore Vossia Sherry, Mon Amour. Sta in panchina, si è alzato male stamattina, mi si è consentito dire: il nostro è un partito serio, disponibile al confronto, nella misura in cui alternativo aliena ogni compromesso, hai lo stress, Freud e il sess, è tutto un cess, ci sarà la res, se quest'estate andremo al mare, soli soldi e tanto amore, e vivremo nel terrore che ci rubino l'argenteria, è più prosa che poesia. Dove sei tu? Non mami più. Dove sei tu? Io voglio soltanto. Dove sei tu? Il prosciutto cotto, il 48, il 68, l'EP38, sulla spiaggia di Capocotta, Cartier Cardenducci, Portobello Illusioni, lotteria 300 milioni, mentre il popolo si gratta, a Dama c'è chi fa la patta, a 7:30 c'ho la matta, mentre vedo tanta gente che non c'è l'acqua corrente, non c'è niente, ma chi me serve? Ma chi me sente? E allora amore mio ti amo, che bella sera, anniversario, ci giure, è meglio, che bella sera, che bella, ci giure, sei meglio, che bella sera, che bella sera, non sarei che bella, anniversario, ci giure, sei meglio, che bella sera, non sarei che. E se riesco a zittire questo studio chiassoso, siamo di nuovo in diretta e abbiamo sentito brevemente che il nostro presidente della piazza, non ci sono sviluppi rispetto a quello che ci ha detto poco fa Alvin, quindi possiamo stare rilassati, spero non così rilassati come per quei 20 minuti in cui vi ho lasciati in mano al resto della redazione, che era un momento particolarmente effervescente, ma magari sì, perché no. Ed ecco lo Zepp e Sbirro che tutti conosciamo. Sì, vorremmo denunciare che ha usato delle canne di bambù per picchiarci. Non so di cosa stiano parlando. 051 588 0406, il numero per contattarci. Anche tu Loris, ora non ci sono emergenze, se vogliamo proseguire la discussione purtroppo poc'anzi interrotta, ritelefona pure, tanto. E insieme a Loris a tutti gli amici che sappiamo che ci ascoltano dal continente e oltre l'Atlantico. E siete 7 in questo momento. Sono le 17:45, noi siamo in via Paolo Fabbri 110, siamo a VAG 61, dove stasera c'è una grigliata benefit per i parcheggiatori della fiera, licenziati dalla fiera, dalle sue esternalizzate, quindi chi si è interessato... passi che di qui a un paio d'ore inizierà a esserci in movimento. E che altro dire, se non chiama nessuno noi continueremo ad ascoltare della musica, ma oppure potremmo anche segnalare un paio di fatti gravi che succedono questi giorni a Bologna, di cui che poco o fino a un certo punto c'entrano con l'oggetto di questa trasmissione, ma che su cui è il caso di spendere due parole, ovvero l'apertura di nuove sedi fasciste. Era tempo che girava voce di un negozio in ristrutturazione in cui c'era un gran via vai di skinhead di Bonezze in via Rivareno 3/C accanto alla gelateria Stefino. Abbiamo scoperto che lì ha aperto niente po' di meno che un circolo sociale culturale Emilia, che sembra fare riferimento a Forza Nuova, perché è lì che Forza Nuova presenterà lunedì a un orario che mi sfugge, alle 14, il il suo candidato a queste elezioni, che udite, udite, udite, chi vuole dirlo? Don Tam. Don Giulio Tam, un sacerdote che non nasconde simpatie, e anche più di simpatie, verso l'estrema destra, che è stato visto innalzare il braccio in un romanico saluto a non più tardi del 28 febbraio scorso a Bergamo, al corteo che appunto... Scusa, Zeppe, 28 febbraio? Che anno? 2009. 2009, non 1939. No, 2009, ok. 28 febbraio 2009 a Bergamo, apriva una sede Forza Nuova anche lì, e c'era un corteo, se non sbaglio, se la memoria non mi inganna. Comunque sta di fatto che tra i neofascisti c'era questo candidato sindaco, Don Giulio Tam, che ha innalzato il braccio e si è anche lasciato dichiarazioni di totale appoggio alle forze nuoviste, mentre, detto in passante, 48 compagni venivano fermati, arrestati e condotti in questura per il tentativo di contestare questa pessima sfilata. Beh, se posso spendere due parole, cioè, questo è un personaggio proprio straordinario, cioè, che spazia con i suoi interventi in milioni di campi, è già diventato, insomma, un must quello che ha detto per quanto riguarda, rivolgendosi evidentemente al mondo della moda. Infatti Don Tam ha recentemente dichiarato che la tonaca da prete è il prolungamento della camicia nera. Però, ma cosa ci può essere di peggio dell'apertura di una nuova sede fascista a Bologna e l'apertura di due nuove sedi fasciste? Perché sempre in questi giorni è l'annuncio che, ringaluzzito dalla campagna elettorale, anche la destra, il partito che si è scisso da Alleanza Nazionale in polemica con la volontà di confluire nel PDL, cosa che peraltro sta succedendo a Roma oggi. E, dicevo, la destra, che non è mai stata particolarmente forte radicata a Bologna, ha aperto questa sede e non l'ha aperta in periferia o al quartiere Saffi, dove già la feccia nera abbonda, ma in pieno centro, a un passo dalla zona universitaria, in via Guerrazzi 18, nella zona degli aperitivi, insomma, della piena movida universitaria. Povero Maurizio, direi. Questa era pubblicità occulta, ma neanche troppo. Però ci ha pagato e in quanto tale dobbiamo magari darla. Magari ci avesse pagato, qua invece nessuno ci paga e noi continuiamo a lavorare gratis. Comunque, speriamo che ci paghi, Mauri, ricordati di noi. Stiamo parlando di cose serie. 051-588-0406 è sempre il nostro numero di telefono e voi siete sempre in sette. All'insegna della stabilità, chiudiamo questa parentesi sull'antifascismo, parentesi non prima di aver ricordato che come se non bastasse, oltre alla destra, Forza Nuova, si candidano anche i simpaticoni di Casa Pound Italia Bologna, con una lista che, giusto per non fare confusione, hanno chiamato Destra per Bologna Fiamma, e che presenterà i suoi candidati al comune e anche alla provincia, ovvero sia l'ex assessore di AN, fuoriuscito da AN, Massimiliano Mazzanti, un fascistone, insomma, storico di Bologna, e alla provincia tal Pietro Paolo Lentini, che pare proprio essere avere... Che, insomma, abbiamo ritrovato, andando a spulciare alcuni libri dei tempi, era presente a quel famoso convegno che si tenne a metà degli anni 70, da cui praticamente si svilupparono, nacquero e poi mestamente si resero noti alle cronache italiane gruppi dell'alto valore morale come Ordine Nuovo, INAR e altre amenità del genere. Bene, il nostro candidato, che evidentemente ha una lunga storia di conoscenza dell'ultradestra, era presente a questo incontro insieme a personaggi come Caccola delle Chiaie, Delfo Zorzi, appunto membri dei futuri nuclei armati rivoluzionari di Fioravanti e Mambro, che, insomma, tutti personaggi che, tra l'altro, molti di questi sono anche, insomma, finiti indagati per le numerose stragi che sono avvenute in quegli anni. Quindi un personaggio sicuramente di tutto rispetto e di cui attendiamo con brivido le sue proposte elettorali. chiudiamo questa parentesi nera. Perché sembra che ci sono novità dalla piazza, ma dobbiamo ancora avere delle conferme, quindi per ora direi che non ci colleghiamo con Alvin, che abbiamo sentito, per così dire, privatamente, ma potrebbe muoversi un corteo, forse. Corteo. E nel lanciare un pezzo musicale, dato che c'è Jack che aspetta da ormai 10 minuti, faccio i miei saluti a Giulia, che ci ha mandato un messaggino facendoci complimenti, Giulia, per la missione da Brescia, invitandola a chiamarci e raccontarci un po' qualcosa anche lei. Ma ci chiami soprattutto Loris, perché ci interessa chiedere un paio di cose riguardo Roma, che è un altro scenario su cui stanno succedendo fatti spiacevoli. Ora sto zitto perché c'è il buon barolo di Andrea e non mi va di credirlo. Indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordigni costruiti su scala industriale, di me non farà mai un cavaliere del lavoro. Io son d'un'altra razza, son bombarolo. Nel scendere le scale ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel nome. Mi spiace molto dover interrompere così De André, ce ne perdoni lui che è immortale, perché siamo proprio in collegamento con Alvin, perché come sembrava si sta riuscendo a fare un corteo. Esatto, proprio esattamente in questo momento sta partendo il corteo. Ti hanno concesso lo studio azul. Lo studio azul. No, ti hanno concesso un corteo verso Piazza Verdi. In questo momento siamo ancora su via Rizzoli. Insomma, la strada è ancora piena di gente. Comunque la polizia ha iniziato a arretrare. Ci hanno ufficialmente concesso il corteo. Noi adesso, ovviamente, senza nessuna fretta, perché più tempo continuiamo a bloccare le strade centrali, meglio è. Ma ovviamente stiamo andando lo stesso verso la piazza. Ma è un po' strano, cioè sembra quindi che la principale preoccupazione di chi ha l'autorità della piazza sia non far arrivare in prefettura. Ci sono dei timori sulla prefettura, come si può spiegare questo lato? Ma guarda, ovviamente può anche darsi che ci sia questo, ma secondo me più che la prefettura in quanto tale, la mia impressione è che il tentativo sia di allontanarsi dalle strade centrali, nel senso che sono accorti anche loro che si era creata una situazione ingestibile, per cui da un'oretta buona ormai stavamo bloccando il traffico e loro praticamente lo bloccavano con noi lì alla T, e quindi ci hanno lasciato il corteo dal loro punto di vista, se vogliamo, come dire, più innocuo verso Piazza Verdi. Forse un ballume di lucidità, quindi, da parte della polizia. Esatto, ci hanno messo un po' a discutere, ma alla fine forse hanno trovato un ballume di lucidità. Dal punto di vista nostro, alla fine siamo in piazza da 2 ore, il blocco c'è stato, penso che, come dire, la notizia ci sia, la visibilità c'è stata, si è visto che hanno provato per appunto quasi 2 ore a tenersi bloccati dentro Piazza Nettuno. Tutte queste cose si sono viste, a questo punto ci è sembrato comunque, come dire, saggio giocarsi la vittoria, attezzare il corteo. Insomma, Piazza Verdi non era il nostro obiettivo nella giornata di oggi, ma credo che il dato comunque sia abbastanza chiaro, cioè non volevano neanche darci la piazza fino a una settimana fa, fino a pochi giorni fa, siamo riusciti a entrare in piazza, non volevano farci uscire, siamo riusciti a uscire, ma siamo anche riusciti a farci autorizzare un corteo, a fare un corteo in questo momento, anche se avevano provato a dirci di stare a sinistra, però ovviamente la gente sta riempendo tutta la strada, quindi via Rizzoli è comunque tutta piena di gente bloccata, l'aria che si respira dal punto di vista nostro è comunque quella della vittoria. Bene, infatti siamo tutti felici anche qui, insomma, che la situazione sia sbloccata. Ti chiederei con calma di provare a trovare qualcuno per delle valutazioni anche un po' generali sulla giornata, alla luce di questa svolta o del patto di base, o eventualmente anche del laboratorio Crescita, una realtà che ha aderito e che sta promuovendo, ha promosso questa data, e magari, insomma, di farci sapere più avanti se riesce ad avere qualcuno da intervistare. D'accordo, ci provo, a più tardi. Ciao Alvin, ciao a dopo. Beh, quindi grandi novità dalla piazza, anche l'ultimo divieto è stato è stato in qualche modo superato. Si può dire che insomma la polizia e la questura in questo caso ce l'ha messa tutta, ma insomma non ci sono riusciti. Pazienza, 1-0 per noi, ritentino la prossima volta, noi saremo sempre saranno tanti. Saranno fortunati, non credo. No, infatti noi saremo sempre tanti e determinati a non retrocedere di un passo, perché si parla veramente di questioni fondamentali e pur non volendo, perché porta sfiga, parlare di periodi bui della storia italiana, però insomma la preoccupazione è grande e si sta diffondendo non solo tra i compagni, perché insomma quello che stiamo vivendo sono tempi bui e quindi tocca lottare. Oh, allora speriamo che Jack abbia pronto un pezzo adatto a festeggiare questa quella che possiamo iniziare a chiamare una vittoria dei movimenti e delle forze vive di questa città. Loris, richiamaci. Musica. Fegatini viscere alla brace e fiaccole danzanti, lamelle dondolanti sul dorso della chiesa fiammeggiante. Vino, bancarelle, terra arsa e rossa, terra di sud, terra di sud, terra di confine, terra di dove finisce la terra. E continente se ne infischia non il vento, e continente se ne infischia non il vento. Mustafa viene di Africa e qui soffia il vento d'Africa, e ci dice tenetemi fermo, e ci dice tenetemi fermo. Il ballo di San Vito non mi passa, oh, il ballo di San Vito non mi passa. La desolazione tira nella sera, si è soffiata via col vento, si è soffiata via col rum, si è soffiata via da dove era ammorzata. Vecchi giovani pizzicati, vecchi giovani pizzicati, dalla taranta, dalla taranta, dalla tarantolata. Cieco che chiude, cieco che apre, cieco che spinge, cieco che stringe, cieco che abbraccia e poi ci scaccia. Il ballo di San Vito non mi passa, oh, il ballo di San Vito non mi passa. Dentro il cerchio del voodoo mi scaravento, e li vedo che la vita è quel momento. Scaccia, scaccia Satanasso, scaccia il diavolo che ti passa, scaccia il male che c'è dentro. Siamo costretti di nuovo a interrompere l'ottima musica di DJ Jack, ma abbiamo Loris che ci ha richiamato in diretta da Roma. Ciao Loris, ci senti? Sì, vi sento. Bene, siamo innanzitutto ribenvenuto su Zik Radio, è molto piacere riospitarti qui. Insomma, volevamo finire con te insomma il discorso che si stava facendo prima, cioè visto che ti trovi a Roma, se potevi un attimo darci due impressioni sui fatti che pochi giorni fa hanno coinvolto gli studenti dell'Onda Romana. Sì, io credo che insomma ci sia un filo un po' comune che da Torino a Roma in un qualche modo vada a far vedere insomma quello che Francesco Raparelli sul manifesto di qualche giorno fa ha definito un pochino come la capacità di da parte del governo di far diventare delle cose vere a partire dagli eventi falsi, insomma, da imparare da Radio Alice, no? In un qualche modo, no? C'era questa bellissima suggestione di Francesco sul manifesto, poi apparsa anche su Uniriot, su Global Project, e in un qualche modo credo che il governo Berlusconi, attraverso anche solamente possiamo ripensare alla fondazione del Partito delle Libertà, attraverso un'uscita dal predellino di una Mercedes, fondare un partito, quindi ecco c'è questa capacità di creare nuova realtà attraverso degli eventi in un qualche modo spettacolari, no? In un qualche modo, e credo che a Roma sia successo un fatto molto grave. Sì, ecco, c'è poi una realtà che colpisce molto direttamente, molto concretamente. Certo, assolutamente, attraverso degli atti spettacolari poi ovviamente si colpisce la libertà di, cioè la più grande università d'Europa completamente bloccata, non si poteva né entrare né uscire, non si poteva in nessun modo provare a mettere in campo quello che è uno dei diritti fondamentali conquistati negli ultimi 150 anni di storia, cioè quello di manifestare. Quindi ci sono state cariche violente prima da parte dei carabinieri, poi da parte della Guardia di Finanza, su un altro lato della Sapienza, insomma ci sono state degli atti che in un qualche modo gridano a un governo di polizia, Berlusconi, che l'aveva promesso ad ottobre, no? La polizia degli studenti. Ecco che in questi giorni, in un qualche modo, il trio Brunetta, Tremonti, Gelmini stanno provando a dare veramente la polizia agli studenti, a chi dissente, a chi vuole creare un'opposizione sociale a questo governo. È il trio Maraviglia, come veniva chiamato una volta. Magari cioè, la gestione insomma così disorganizzata per spiegare agli ascoltatori che cosa è successo a Roma, visto che forse stiamo dando un po' troppo per scontato e qualcuno di voi sette potrebbe sentirsi un po' disorientato. Io no. Sei, perché Loris evidentemente che sta ascoltando sa già, è già aggiornato. E a Roma, come scrive Uniriot, il 18 marzo, come anche a Bologna, c'era imprevisto un corteo dell'onda per in occasione della giornata di sciopero indetta dalla CGIL FLC, una giornata quindi che andava a espandersi in maniera autonoma anche all'università e che andava, in cui appunto era stato convocato un corteo anche da parte degli studenti dell'Onda, però per sempre per questa ottima direttiva Maroni la polizia ha caricato qua già ai cancelli della Sapienza gli studenti che cercavano di uscire e insomma fortemente il diritto di manifestazione è negato completamente anche a quello che è uno dei soggetti sociali più attivi e più importanti di questo periodo. Sei d'accordo, Loris? Sì, assolutamente, diciamo che in un qualche modo, come vi dicevo, veramente il clima sembra essere molto brutto, anche perché a Torino insomma c'è un compagno che credo sia ancora dentro, insomma dalle ultime informazioni che ho, Luca, non so se è stato rilasciato dopo il tentativo da parte dei compagni di non far entrare i neofascisti del FUAN all'interno. Sì, ecco, se ci puoi ricordare anche per i telespettatori che cosa è successo a Torino e in quale occasione Luca è stato arrestato. A Torino, diciamo che sempre dal sito Uniriot, insomma, che sta diventando un network ormai molto centrale all'interno di tutte le mobilitazioni studentesche, ci è arrivata notizia di questo tentativo da parte del FUAN di entrare all'interno dell'università. E ovviamente i compagni hanno cercato di impedire a questi loschi personaggi che, come dire, qui a Roma ad esempio è successo un altro fatto molto particolare in un'aula c'è stato un'aggressione fascista da parte dei fasci a Roma 3, sono entrati i compagni nell'aula autogestita di questi ragazzi di Azione Universitaria e hanno trovato mazze, spranghe, caschi, coltelli, cioè in pratica si tratta veramente di vere e proprie squadracce che ancora in un qualche modo riescono a camuffarsi come partiti che vogliono confluire verso la destra, ma non in realtà come dire, rappresentano vere e proprie forme di neofascismo. Sì, e quindi io insomma vedo veramente un clima molto brutto, per questo insomma sono molto contento che oggi a Bologna si sia riuscito a rompere i divieti, si sia riuscito in un qualche modo a distruggere questa direttiva Maroni, che in un qualche modo da Roma a Bologna sembra veramente essere un qualcosa di micidiale, perché se non abbiamo più nemmeno il centro per manifestare, ciò significa veramente una riduzione delle libertà per tutti quanti, è veramente molto molto grossa. Sì, ecco, Loris, appunto, se non mi ricordo male, poi per l'aggressione a Roma, insomma, sono rispuntate per l'ennesima volta le lame, avevo letto questa notizia. Sì, io sempre leggendo da fonti dal manifesto, sembra che in quest'aula veramente autogestita abbiano trovato veramente di tutto. Veramente un'altra ennesima aggressione che ha visto tre compagni andare al pronto soccorso. Ovviamente queste aggressioni subito presa a pretesto, ecco, gli estremisti di destra e di sinistra, si tenta di metterli sullo stesso piano, mentre sì, è una vecchia canzone, una vecchia canzone che conosciamo bene, che purtroppo si sentiva dire anche dal nostro sceriffo Cofferati su a Bologna, non si sente dire soltanto da Alemanno qui a Roma, no? No, l'abbiamo sentito tante volte, anzi l'abbiamo anche sentito sulla nostra pelle in questi anni di amministrazione di Tex Willer, Cofferati. Sì, ce li siamo vissuti tutti questi 5 anni molto molto brutti. Possiamo veramente dire pienamente che Cofferati, oltre ad essere un gran bel pezzo di merda, è stato veramente un blocco per questa città, eh. È stato veramente un blocco enorme per tutta la Bologna viva, la Bologna che in un qualche modo è produttiva di eccedenze, di cinematografiche, musicali, culturali, di scrittura, di universitarie, di istituzioni del comune, no? Insomma, è stato veramente un enorme blocco tra i più stalinisti, tra i più regressivi che in un qualche modo si sono verificati in tutta Italia. Forse veramente possiamo veramente vedere che l'autoritarismo con Cofferati non è né di destra né di sinistra, ma è diventata veramente una forma comune per esponenti della destra che della sinistra, questa nuova forma di autoritarismo, no? Sì, ma poi un'altra cosa notevole è che Cofferati ha fatto da apripista, cioè se 5 anni fa alla sua elezione, bene o male, il sindaco aveva un ruolo, il sindaco è diventato il depositario della responsabilità della pace sociale, dell'ordine pubblico, che quasi sostituendosi alla questura, ed insomma Cofferati è stato imitato in questo suo andazzo da una serie di epigoni in tutta Italia assolutamente inquietante. Prima è stato Zanonato a Padova, ma poi anche molti altri, si è visto soprattutto quest'estate con un'ondata di ordinanze creative, una più bislacca dell'altra, che tutte però andavano a limitare quelle che fino al giorno prima erano libertà assolutamente normali. Ad esempio a Bologna, per tornare da dove siamo partiti, l'ultimo, perché Cofferati non si ferma fino all'ultimo giorno in cui occuperà quella maledetta poltrona a Palazzo d'Accursio, ha vietato di andare in bicicletta portandosi al guinzaglio il cane. A Bologna non si può più. Veramente, lo sapevo. Che riguardava la fauna urbana e tra varie amenità, tra cui il divieto di gettare le aragoste vive nell'acqua bollente, c'è anche questo sui cani al guinzaglio. Siamo quasi alla... Si verrebbe da ridere a dire che siamo alla farsa, se non fosse tutto avviene in un contesto di restringimento e di normazione degli aspetti anche più banali della vita quotidiana, che insomma dovrebbe spaventare persino i liberali. Non dico noi che speriamo in un mondo ben diverso, ma certo. I sinceri democratici liberali che da Giuditti in poi penso che non si immaginassero un livello di normazione e di codificazione tale. E insomma, Cofferati ha avuto il suo buon ruolo di aprire la pista a questa. Volete sapere una chicca anche in questo? Ad esempio qui a Roma una delle ultime ordinanze del sindaco Alemanno è quella che non si potranno più mangiare le cosiddette bombe alla crema, cioè i cannoli, i cornetti farciti dopo l'una di notte, cioè in un qualche modo Alemanno riprende delle ordinanze fatte da Cofferati. Questo veramente ci fa vedere che siamo, secondo me, in un'epoca post-ideologica in cui veramente distinguere ancora nettamente tra destra e sinistra, ovviamente escludendo da questo i neofascisti che occupano bene una loro posizione come Casa Pound e Forza Nuova, ma ad esempio tra PDL e PD, lo abbiamo visto ad esempio nella guerra in Israele, lo abbiamo visto sulle ordinanze repressive, lo abbiamo visto su tutta una serie di cose in cui ci sono dei tratti di neoautoritarismo che si mischiano e che ovviamente fanno sembrare questo paese molto meno liberale dei paesi del nord Europa, un paese in cui manca il welfare che c'è nel nord Europa, manca la liberalità che c'è nel nord Europa, e quindi si trasforma ovviamente sempre più in un paese in cui le risposte che vengono date sono nuova nuova repressione, nuova polizia, l'unico welfare, l'unico workfare è la polizia, è il carcere, la polizia, ampliamento dei carceri, questo sta facendo il nuovo governo, nuova polizia, ronde per tutte le città. Come sì, se, e insomma, potremo parlare insomma per ore di queste cose che purtroppo attanagliano l'esistenza quotidiana di molti e molte in questo certo. periodo. Io volevo chiederti un'ultima cosa e poi ti lasciamo e insomma proseguiamo anche con la diretta qui da Bologna. Certo. Siccome immagino che tu, insomma, anche per le informazioni che ci hai dato, avrai avuto modo di parlare con alcuni tuoi colleghi, non so, so che fai l'università a Romani, rispetto, cioè, così, al clima che si sta vivendo, ma rispetto anche, come dire, alle forme di resistenza in questo caso, perché poi ogni campo diventa una resistenza, perché dappertutto vediamo moltiplicarsi di movimenti che cercano di riaffermare o comunque difendere dei diritti. E boh, così se ci volevi un attimino parlare di quello che succederà a Roma nei prossimi tempi, se sai di qualche iniziativa, di qualche evento importante. No, io devo dire che purtroppo non sono informato molto più di voi su questo. Purtroppo sono a Roma per delle questioni personali e non ho potuto sentire né le compagne e i compagni, quindi non ho delle ultime notizie da darvi. Beh, non fa niente, tranquillo. Male, grazie a voi, grazie per la chiacchierata. Faremo per un'altra volta. Grazie sì, a te, sì, Loris. Sì, alla diretta di Zic, grazie a voi. Hai il gagliardetto prenotato quando torni. Grazie. Ci vediamo tu a Bologna fra un po' di giorni, va bene? Prestissimo, ti aspettiamo a braccia aperte. Ciao. Loris, ciao. Ma ci sono forse delle novità dalla piazza, perché siamo stati contattati da Gabriel. Lo chiedo a Piero che l'ha appena sentito al telefono. Sì, ci sono infatti delle novità. Il corteo è appena giunto in Piazza Verdi e ci è arrivato in maniera determinata e allegra, gioiosa allo stesso tempo. L'intenzione adesso è quella di rimanere, fermarsi quindi in Piazza Verdi, nonostante Piazza Verdi non fosse il luogo in cui, come avevano richiesto gli organizzatori, la manifestazione doveva finire. Ad ogni modo, i manifestanti da Piazza Maggiore, lo ricordiamo, sono avanzati per la via Rizzoli, sono discesi poi per la via Zamboni e quindi sono di fatto riusciti a prendersi ciò che chiedevano. Nel momento in cui chiedevano di poter marciare per manifestare il proprio dissenso per le vie, per le strade della città. Quindi rivolgiamo anche l'appello audioascoltatori, pochi ma ottimi, c'è da dirlo, di recarsi in Piazza Verdi. Noi lo scriveremo anche sul sito adesso. Fate anche di più, magari chiamate amici, andate, confluite tutti in Piazza Verdi, perché oggi a Bologna si è vissuta una giornata di lotta importante. Bene, grazie Piero, che finalmente abbiamo avuto occasione di sentire anche lui in voce, per questa conduzione corale da parte di questo studio affollato e fumoso. Io però non sottoscrivo il suo appello a recarsi in piazza, perché sennò chi cavolo ci ascolta noi altri? Questo è un bel dibattito, dai. Lasciate il computer acceso, così noi pensiamo che ci state ascoltando, ma andate in piazza, qui siamo tutti magari contenti. Registratevi e se proprio dovete restare a casa, telefonateci e diteci perché. Almeno ecco, 051 portate la giustificazione 588-0406 051 588-0406. Jack, sei pronto con la musica? Vai. Rock and Roll Hit Radio. Senti come pompa. Guardami negli occhi e poi dimmi non mi perderanno mai. Oh, dimmi che c'è ancora posto nel tuo cuore. Dimmi dove e quando io ci sarò. Vuoi, o cambieremo vita libera e felice. Eccoci di nuovo in diretta, siamo con Nicolò da Piazza Verdi. Nicolò, mi senti? Sì, ti sento, ciao a tutti. Benissimo, ok, siamo con appunto Nicolò che oggi ha partecipato a questa manifestazione e che insomma ci darà insomma una sua lettura, le sue impressioni su quello che, su come è andata oggi, su quello che si è verificato oggi in piazza. Sì, oggi è comunque una giornata importante perché per la prima volta in Italia direi sono in maniera significativa il decreto Maroni. In piazza c'erano tante realtà, soggettività, gli studenti, i centri sociali, i sindacati e quant'altro, e insomma è stata una dimostrazione che è ancora possibile in qualche modo riprendersi le strade. Sicuramente il decreto sicurezza, il pacchetto Maroni sono direttive atte a limitare la possibilità che studenti precari si oppongano in qualche modo alla crisi, e oggi è stato aperto uno spazio di agibilità e di libertà molto significativo. Sì, ecco, noi nelle varie corrispondenze che abbiamo avuto abbiamo sentito che bene o male nelle varie fasi che poi si sono succedute durante questo pomeriggio la partecipazione al presidio, che poi è diventato corteo, è sempre cresciuta. Sì. Tu ora siete in Piazza Verdi, giusto? Siamo in Piazza Verdi, siamo stanziali qua all'incrocio in piazza. Ok, ci puoi dare una valutazione così numerica anche per avere un'idea? Guarda, il presidio all'inizio, quando ancora era in piazza Nettuno, saremmo stati, non lo so, qualche centinaio, 300, 400. poi secondo me lungo il corteo si è arrivati anche al migliaio tranquillamente, direi. Ah, ok, quindi insomma ci confermi che la partecipazione è andata aumentando? Sì, no, è stato soprattutto quando è partito il corteo. Esatto, da quando si è riusciti un po' a uscire dalla blindatura della piazza, a comunicare un po' con le persone che passavano, si è visto anche un coinvolgimento, una partecipazione, e proprio sì, durante il corteo molte persone sono accodate, diciamo. Sì, ecco, quindi insomma abbiamo sicuramente assistito, voi in prima persona, noi in diretta dagli studi di Zic, ad una manifestazione importante, importante per la città di Bologna, ma non solo. E ecco, volevamo sapere un attimino come si svilupperanno le cose, se hai la possibilità di dircelo, cioè avete intenzione di rimanere in Piazza Verdi? Guarda, adesso cioè, sicuramente il risultato nel senso è stato raggiunto, quindi penso che bene o male ci fermeremo qui. Poi siamo, insomma, la gente ancora sta in piazza, sta valutando, però insomma penso che già essere riuscita, è uscita dalla piazza, fare il corteo, sia insomma il risultato pienamente raggiunto. Sì, no, infatti su questo possiamo darlo come ormai assodato, come dato politico della giornata. Tutti i divieti alla prefettura sono stati infranti, che erano stati imposti dalla TAV, da parte a questo punto non solo del movimento ma della cittadinanza bolognese, a questa manifestazione in difesa di un diritto fondamentale e sacrosanto, no? Come poi abbiamo riaffermato più volte durante le nostre dirette. E niente, io detto questo, se non hai altre valutazioni o aggiunte da fare ti saluterei. Va bene, sì. Sì. Ciao, ciao a tutti. Ok, a risentirci alla prossima. E, okay. Quindi torniamo in studio. Abbiamo sentito insomma anche delle valutazioni di un altro partecipante alla manifestazione, uno studente dell'Onda Nomada di Bologna che... come abbiamo potuto sentire prima anche da Andrea, insomma ha partecipato attivamente alla costruzione di questa giornata e quindi direi che possiamo respirare un secondo, qui è di nuovo Zeppe che non era mai andato via, e ascoltarci gli Asian Dub Foundation che ci sta tenendo caldi caldi il nostro Jack, e poi torniamo a chiacchierare. Sopra questo pezzo degli Asian. Rinnoviamo l'appello a tutte e a tutti a recarsi in piazza e a concludere degnamente questa grande giornata di mobilitazione. this is the radio I like. Sogno segreto, i corvi del vieto di mettere a morte i corvi di Orte. Forza Etna, vai con l'iscio, meglio un morto in casa che un pisello all'uscio. Got me tun Salah Barin, got me trust, Dio lo vuole. Filastrocca si nasconde l'infedele. Tutti contro tutti, nessuna scusa. Tutti contro tutti, a calci sul muso. Tutti contro tutti, caccia l'intruso. Tutti contro tutti, contro tutti per uno. E che c'è stata un'ottima partecipazione. Tutti contro tutti. 051 588 0406 per chiamarci. 051 588 0406, sempre Zic Radio, sempre in diretta, siamo alle fasi conclusive di questo lunghissimo pomeriggio di trasmissione. Spero mi stiate sentendo e non stiate sentendo solo la musica che è altina. E che dire, siamo sempre in diretta, siamo sempre per voi, torneremo a fare l'ultimo collegamento della piazza tra poco. E ricordiamo a tutti, il divieto è stato rotto, un corteo si è mosso dal Nettuno, ha rotto la militarizzazione asfissiante di Piazza del Nettuno dopo ore di avanzamenti e di nervi tesi, e senza che ci fosse stato, non ci sia stato nessuno scontro e nessuna essa parte una piccola carica molto limitata, e il risultato è portato a casa, il divieto è rotto, il corteo è terminato in Piazza Verdi senza problemi. E torniamo alla musica. Tell them about it. Get away with her. Hey, cool thing. Come here. Sit down beside me. There's something I gotta ask you. I just wanna know, what are you gonna do for me? I mean, are you gonna liberate us girls from male, white, corporate oppression? Tell it like it is. Huh? Yeah. Don't be shy. Word up. Fear of fear, planet, fear, baby. I just want you to know that we can still be friends. Let everybody know. ultime news dalla piazza. Ci è arrivata la notizia che il corteo si è sciolto e i manifestanti, insomma, si stanno recando alle loro case per passare una bellissima serata dopo una grande giornata di mobilitazione contro i divieti, che ha visto un'importante partecipazione di piazza e che a seguito di quasi due ore di fronteggiamenti e di tatticismi da parte sia della questura che della spontaneità dei manifestanti, che più volte sono riusciti a infilarsi tra le maglie dei cordoni della polizia e quindi andare a creare situazioni di superiorità, direi quasi rugbistica, è riuscito a partire il corteo, che è arrivato una mezz'ora in Piazza Verdi e che ora si sta sciogliendo. Stasera possiamo dire sarà festa grande in tutta la Bologna che conta e che lotta, e quindi ricordando che anche qui a VAG si festeggerà questo ed altre situazioni con una stupenda grigliata a base di carne, rigorosamente, in solidarietà e in appoggio alla lotta degli ex, ormai ex parcheggiatori della fiera. Vi aspettiamo numerosi qui a VAG stasera e vi lasciamo con l'ultimo pezzo, se non ci saranno altri aggiornamenti dell'ultimissima ora. 18.45 del pomeriggio, di un pomeriggio d'equinozio di primavera, un po' troppo freddo a dir la verità per essere l'equinozio di primavera, ma che possiamo dire che abbia iniziato la rossa primavera di Bologna, che almeno con una spallata che prova a mettere un argine a questa angosciante seta autoritaria. Noi possiamo finalmente rilassarci dopo queste oltre tre ore di diretta in streaming. Ringraziamo i nostri ascoltatori, e in particolare i due che ci stanno ancora ascoltando a quest'ora. Tra poco vi lasceremo, potrete spegnere il computer e accendere il TG3 se siete stanchi, oppure venire alla grigliata Vag o a qualche altro genere di iniziativa, dato che è sabato sera e bisogna spenderlo bene. E io ringrazio tutto lo staff, la crew, l'equipe, la squadra e la balotta direi. E anche l'equipe 84 che ha permesso di fare questa giornata. Ringrazio innanzitutto Dario che è ancora qui al mio fianco, che è stato un onore. Ringrazio Walter e Piero che si sono alternati alla co-conduzione, all'aggiornamento all'aggiornamento di Zik, del sito, che oltre che in audio via per così dire radio vi ha aggiornato nel consueto modo con le nostre ottime pagine dinamiche aggiornate minuto per minuto, mentre Walter ci segnala tra l'altro che già alcuni altri organi di informazione online come Radio Città del Capo e il resto del Carlino, che è sicuramente il peggiore, stanno riportando di questa giornata. Sicuramente però la copertura migliore l'abbiamo fatta noi, visto che qualcuno mi accusa con fare accusatorio di star facendo pubblicità alla concorrenza. Quindi grazie anche a Piero e Walter, grazie a Sirio che ha curato le parti tecniche, grazie soprattutto per le incursioni in conduzione, perché se 4 erano pochi, 5 sono pochissimi, e grazie al nostro DJ giovane che mi ha liberato dell'impegno di portare una chiavetta delle solite 4 canzoni stupide in croce, a Jack e al suo infinito archivio musicale. Direi che per ora è tutto. Volevo della musica trionfale per questa chiusura e ci siamo dimenticati di alzare l'apposita levetta sul mixer, ma ora diamo ampio spazio ai Beach Boys e su queste note scanzonate un saluto grosso a tutte e a tutti i due ascoltatori ora all'ascolto. Avete ancora 10 secondi per telefonarci allo 051 588 0406. Fate in fretta! La prima cosa che mi passa per l'anticamera del cervello, se noi andiamo a mangiare. Radio 6 5 4 3 2 1 Zik Radio tornerà sabato prossimo, perché a Roma si contesta il G14, gli autoproclamati 14 stati più welfare del mondo si troveranno appunto per il G14 sullo welfare. Dai, rimetti il sottofondo, Dario. I soliti sindacati di base hanno convocato una manifestazione, ovviamente anche stavolta centri sociali e reti di movimento romane nazionali stanno interessanti alla data, quindi appuntamento per il pomeriggio di sabato 28 marzo 2009, sempre su aprendozig.it, cliccate sull'ottima talpa che trovate in alto a destra e ci ascolterete subito se tutto va bene, se no c'è spiegato come fare. Grazie a tutti e saluti a tutti. Dai, lascia andare la sigla. una frequenza, se avete una frequenza FM inutilizzata, portatecela a VAC, ci trovate fino a tarda ora, cerchiamo frequenze disperatamente di qualsiasi colore, razza, provenienza e opinione. Anche usate. Anche squalcite.